La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 e grazie per l'ascolto come sempre in diretta in podcast in questo giovedì 6 aprile. Vi dico subito, oltre a ricordarvi l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, come sempre per osservazioni, domande o per candidarvi a temi direttamente della puntata, che oggi ci prendiamo per così dire una necessaria, secondo me, distrazione rispetto agli argomenti di cronaca quotidiana, perché si avvicinano oramai, questione di poche settimane, le elezioni presidenziali francesi. Diverse puntate le abbiamo dedicate con Francesco Maselli e torneremo a farlo man mano che ci si avvicina al primo turno e poi al secondo turno delle presidenziali francesi, perché lo sapete benissimo, sono elezioni il cui impatto va al di là e oltre la pur significativa importanza ovviamente per il futuro della Francia. Sono l'appuntamento diventato fondamentale per tentare di capire quali sviluppi anche in tutta Europa potrà avere l'ipotesi di uno scrollone violento nel caso di vittoria di Marine Le Pen, oppure di una sconfessione nel secondo turno se i francesi eleggeranno, a questo punto sembra che il deuteragonista dovrebbe essere, l'antagonista dovrebbe essere Macron, e quindi è una appuntamento elettorale di importanza continentale e anche più che continentale, che con quello che avviene nel frattempo dall'altra parte dell'oceano con Trump, e ricordando che abbiamo un quadro internazionale in cui gli Stati Uniti con la sua presidenza, per così dire, dicono sì l'Occidente, no, prima gli Stati Uniti, rapporti diretti con le grandi potenze, con la Cina, con la Russia. Cari europei, vedetevela da soli, perché per quello che ci riguarda comprendiamo, per non dire che sosteniamo, la Brexit del governo May. A maggior ragione tentare di capire meglio, al di là della cronaca giornalistica quotidiana, la realtà storica di cui è figlia nell'evoluzione della storia francese il Front National guidato da Marine Le Pen, così diverso da quello del padre. Io ho trovato di straordinaria utilità per me un libro che rappresenta lo spunto per la trasmissione di oggi. Questo libro si intitola La Francia in nero. Il sottotitolo è molto chiaro: Storia dell'estrema destra dalla rivoluzione, si intende come rivoluzione francese ovviamente, a Marine Le Pen. L'editore è Marsilio, la collana ai nodi, sono più di 300 pagine, molto dense, molto utili per chi non ha, cioè la stragrande maggioranza di noi, sotto la punta delle dita e della lingua, l'evoluzione della storia francese, perché come sempre così noi abbiamo in mente pochi grandi personaggi della storia dei paesi che ci sono vicini e non ne cogliamo la continuità, a volte contraddittoria, di evoluzione della storia politica. Ecco, questo volume dedicato allo sviluppo che dal 1789 in Francia ha avuto fino a Marine Le Pen i diversi filoni della destra, a cominciare da quella antirivoluzionaria in avanti, è molto utile perché ci consente di capire quanto frequenti nella storia francese, anche se può sembrare una contraddizione, ma al contrario non lo è affatto, siano state le innervature reciproche tra, diciamo così, la destra e, diciamo così, la sinistra, lungo l'intera storia francese, avendo al centro, spesso con evoluzioni politiche che sarebbero incomprensibili se non fossero avvenute nella storia, per i non francesi sono incomprensibili, di grandi figure della sinistra radicale repubblicana degli ultimi due decenni dell'Ottocento, che in realtà finiscono per promuovere temi e leader che diventano alla testa del personalismo politico antiparlamentare, e soprattutto con comuni convinzioni contro il mercato, il capitalismo, la concorrenza, da un certo momento in poi della storia francese, con l'action francese, ma non solo con l'action francese, contro gli ebrei, poi contro Israele, eccetera, eccetera. Ecco, la continuità di questi sviluppi in questo libro è analizzata analiticamente, ma secondo me serve a capire ciò che altrimenti appare incomprensibile. Nella pura descrizione giornalistica, e ho finito, il motivo per il quale Marine Le Pen in questi anni sia diventata il partito di riferimento del nord operaio francese, per esempio, sembrerebbe una contraddizione. Invece è capitato spessissimo nella storia francese di leader antiparlamentari della destra verso la quale la sinistra, prima quella radicale, poi quella comunista, strizzavano l'occhiolino, capaci esattamente di raggiungere questo stesso risultato in termini di consensi. Quindi non è una straordinaria novità, anzi non lo è praticamente per nulla. L'autore di questo libro, che è con noi, che io ringrazio per questi minuti che ci dedica oggi pomeriggio, è il professor Marco Gervasoni, che insegna storia contemporanea all'Università Molise, e storia comparata dei sistemi politici alla LUISS di Roma, e editorialista per Il Messaggero. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professor Gervasoni. Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito. Innanzitutto dica se nella mia brevissima sintesi da puro appassionato della materia ho detto qualche stupidaggine e mi corregga. No, è una sintesi perfetta, anzi, considerando la mole del volume, è lodevole, insomma, perché grazie. Non era scontata. Insomma. No, però io credo che sia uno degli obiettivi che nel ripercorrere questa lunga storia lei si propone. Io parto, perché ovviamente il tempo è quello che è, quindi noi dobbiamo tentare, per così dire. Io le propongo quattro raggruppamenti di periodi, per così dire, per far capire, poi arrivare alle conclusioni di che cosa è figlio o da che cosa si separa di queste precedenti esperienze. Io le propongo di iniziare gli antirivoluzionari francesi fino alla fine della nostalgia monarchica, per capirci. Uno, primo periodo, lungo e complesso, Secondo, il periodo invece della Repubblica, e con le diverse manifestazioni per cui abbiamo dei leader radicali che finiscono per promuovere generali alla testa della Francia, perché non è che generale De Gaulle, si comincia da Boulanger e poi c'è. Terzo, la Francia del post-Dreyfus fino a il fascismo francese, e quarto periodo, il secondo dopoguerra. Sono, mi rendo conto, delle semplificazioni da giornalista, lei mi perdonerà. Però la mia prima domanda è, infatti mi vergogno a essere editorialista insieme a lei sul Messaggero, però purtroppo capita nella semplificazione giornalistica. Allora, se uno legge i libri del primo De Bonald di Lamennais, in cui ci si scaglia contro il mercato, la concorrenza, i borghesi, e stiamo parlando della prima opposizione legittimista dura alla rivoluzione francese, si resta impressionati, perché sembra di leggere oggi quello che dicono i no euro in Italia. Sì, esattamente, nel senso che fin dall'inizio, fin dai giorni successivi allo scoppio della rivoluzione francese, la critica che quelli che poi diventano controrivoluzionari è che la rivoluzione francese è stata fatta dalla borghesia contro il popolo, e non sto utilizzando i termini che venivano utilizzati allora, non sto facendo, come dire, un'attualizzazione. Quindi le figure che ha citato lei, a cui se ne possono poi aggiungere molti altri, c'è questa appunto particolarità per cui la rivoluzione francese veniva vista come il prodotto, diciamo, la rivoluzione francese ovviamente è qualcosa di negativo per i controrivoluzionari, come il prodotto del capitalismo e del libero mercato, del libero commercio, del free trade, veniva detto allora, che veniva visto come un prodotto estraneo alla Francia, in quanto prodotto di importazione inglese. Quindi, diciamo, se vogliamo fare una semplificazione giornalistica, ma per me la semplificazione giornalistica è un complimento, non è una critica, diciamo che troviamo questi controrivoluzionari certamente come antesignani dei no global. Non a caso molti di questi controrivoluzionari poi hanno degli scambi d'amorosi sensi con i primi socialisti. Quando si consuma, quindi, oltre il bonapartismo di Napoleone I e di Napoleone III. La parabola col lunga, per i lunghi decenni in cui il conte di Chambord essere alla testa del partito, diciamo così, nostalgico monarchico, avviene una specie di grande incontro nella storia francese. Cioè capita, voglio dire, che lo stesso capo del partito legittimista, che non rifiuterà sempre di riconoscere il tricolore fino alla fine, stiamo parlando oramai di quando l'Ottocento è molto inoltrato, quindi dopo la sconfitta con i tedeschi nel 1870, eppure negli anni 60 dell'Ottocento il capo del partito legittimista scrive lettere in cui dice: ma insomma, le rivendicazioni operaie e le stesse prime organizzazioni dell'assistenza operaia, eccetera, eccetera, lo scrive nel 1865, una lettera sugli operai, diciamo, dice, sono in definitiva la stessa cosa che ci proponiamo noi. Lì, diciamo, il conte di Chambord, che era l'erede per i legittimisti, era quello che doveva prendere il potere, era l'erede del ramo Artois dei Borbone. Il re Artois dei Capetingi, a cui la rivoluzione aveva tagliato la testa. Si pone naturalmente la lettera agli operai che lei giustamente ha citato, si pone come un tentativo da parte dei legittimisti che si muovono in quella strana democrazia che era la democrazia di Napoleone III, che era una democrazia ovviamente che oggi noi non definiremmo tale, ma insomma però c'erano comunque elezioni, eccetera, eccetera, di rivolgersi agli operai, perché gli operai venivano considerate le vittime della modernità come loro, e in qualche modo gli operai erano considerati coloro che erano vicini allo spirito del popolo francese, più che non appunto i borghesi, che non avevano un legame con la nazione, anche se il concetto di nazione è, diciamo, è complesso e viene dalla rivoluzione francese, però loro lo accettano a partire da quel momento, anche i controrivoluzionari. Ma come capita poi che è morto Chambord, quindi siamo oramai Chambord muore nel 1879, ma come capita poi che siano, voglio dire, dei politici come Clemenceau, cioè di sinistra per capirci, leader dei radicali, che era diventato ormai indispensabile per la maggioranza, a diventare coloro che portano al potere prima ministro, ma poi diventa il simbolo, per così dire, della destra, del capo, della vendetta della Francia contro la sconfitta, dell'Unione Nazionale al di là delle classi, il generale Boulanger. Cioè, come nasce questa cosa, che è abbastanza ricorrente da quel momento in poi? Beh, lì avviene qualche cosa di interessante col boulangismo. Avviene che la nuova destra, che nasce col boulangismo, che è una destra nazionalista, in qualche modo erede della rivoluzione francese, diversamente dai controrivoluzionari, nasce appunto dalla spinta della sinistra. E in realtà, se andiamo a leggere, ho citato nel libro alcuni passaggi dai meeting, dai discorsi di Boulanger, siamo, diciamo, in piena, non solo in piena Marine Le Pen, ma anche in pieno Trump, in pieno populismo, come si direbbe oggi, cioè l'idea che c'è un capo che rappresenta il popolo, questo capo deve tenere unita la nazione e il popolo inteso in senso, sia in senso generale sia in senso di proletariato, e questo capo capisce meglio dei politici. Qui c'è un'altra costante, è l'ostilità nei confronti della democrazia parlamentare, e invoca una democrazia diretta sul modello americano o sul modello svizzero, l'idea del referendum continuo, no? di consultare, naturalmente consultare col presupposto che però il capo vede prima degli altri e in maniera intuitiva a questo rapporto con il popolo, e non è un caso che sia un generale. Questa idea del generale naturalmente ritorna perché c'è l'eredità di Napoleone I, naturalmente l'idea del generale che avviene e che sbaracca i politici corrotti, per intendere. Da quel momento in poi, una specie di ideale linea di continuità, Boulanger poi andrà esule, non adempierà questa funzione malgrado il vasto sostegno, in un quadro anche di violenza politica che nella storia francese è un po' più continua di quanto non sembri. Si radicano immediatamente due figure, quella di Barré e poi di Morat, che sono il grande ponte, per così dire, intellettuale e politico per la destra anti-ebraica, nazionalista, eccetera, eccetera, che sarà poi il passaggio nella Francia politica a destra verso il vero fascismo francese. Adesso ci fermiamo un minuto per il traffico, tra un minuto. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati con il professor Marco Gerbasoni. Io vi consiglio a tutti di leggere questo libro, La Francia in Nero, Marsilio Editore, storia dell'estrema destra della rivoluzione a Marine Le Pen, per capire di che storia è figlia Marine Le Pen. Siamo arrivati in questa ricostruzione ipersintetica, di cui ho chiesto scusa all'inizio al professor Gerbasoni, al momento nel quale, dopo il boulangismo, insomma, la destra francese, con figure come Barret, Morat e l'Action Française, in realtà si vede una continuità che dalla Prima Guerra Mondiale porterà poi con quei temi fino alla prima vittoria della destra nel 1919 e dopo quella nel 1879. E sono temi tosti, perché nel nazionalismo oramai l'anti-ebraismo diventa fenomenale, con delle punte terrificanti che precedono veramente il nazismo da tutti questi punti di vista, però spiega la parabola fino a Pétain, e il collaborazionismo con i nazisti. Com'è possibile è stato questo? Quali erano i fermenti sociali di questo consenso? Allora, nel caso di Barrès e di Morras bisogna dire che loro sono i veri fondatori intellettuali del nazionalismo. Il nazionalismo è stato egemone nell'intellettualità francese almeno fino agli anni 50. Basti dire che Marcel Proust, che certo non veniva da quel mondo e poi era ebreo, considerava la pagina letteraria dell'Action Française la miglior pagina letteraria di Francia, e quindi del mondo, diciamo, per quel periodo, e c'è l'antisemitismo. L'antisemitismo è collegato al discorso che si faceva prima dell'anticapitalismo, perché l'antisemitismo è una forma di anticapitalismo. Di antiglobalismo, perché poi alla fine l'accusa degli ebrei di essere la colonna portante della globalizzazione. Certo. E da lì si va al fascismo, anche se poi bisogna dire che Barrès era già morto, Morras fu... sempre abbastanza critico nei confronti del fascismo e soprattutto del nazionalsocialismo. Bisogna intenderci, critico in che senso? Per lui il fascismo e il nazionalsocialismo, a maggior ragione, erano prodotti stranieri e che quindi i nazionalisti francesi non avevano bisogno di prendere di ispirarsi a Mussolini e a Hitler in modo particolare, avevano tutto al loro interno per raggiungere quegli obiettivi. Quindi Morras, per esempio, non fu critico nei confronti dei collaborazionisti che stavano al nord, nella parte occupata dalla Germania, però fu un fervente sostenitore del regime di Vichy, e sul piano, per esempio, della Shoah, il regime di Vichy ha contribuito alla Shoah, scrisse più volte che non faceva abbastanza, avrebbe dovuto fare di più. Come nascono figure tipo quella di Doriot, in Italia larghissimamente ignoto ai più, che da sindaco comunista diventa negli anni 30 una specie di, come devo dire, ideale simbolo di che cosa vuol dire nella storia francese il mischiarsi con temi nazionalisti, consensi di destra, eccetera? Come in Italia noi abbiamo visto il fenomeno un po' opposto, cioè i giovani fascisti che abbracciano il comunismo alla fine del fascismo, lì invece è precedente il fenomeno di comunisti a destra. Che Doriot non è semplicemente il sindaco di Saint-Denis, che pure era la banlieue rossa per eccellenza, era il vice segretario del Partito Comunista e per un certo periodo stava per diventare il capo del Partito Comunista se non avesse avuto dei problemi con Stalin. Quindi lascia il Partito Comunista e, con una cultura politica sostanzialmente bolscevica, anzi staliniana, riporta questa cultura politica all'estrema destra e diventa il simbolo, diciamo, se non il simbolo, ma certamente un esponente del fascismo francese, con il partito che lui crea, che si chiama Parti Populaire Français. Ed è interessante vedere come le modalità tribunizie, soprattutto nella comunicazione, si passino nel giro di pochi anni dal comunismo al fascismo, in qualche modo confermando le tesi di coloro che già allora consideravano che i due fenomeni fossero in realtà avessero più canali di comunicazione tra loro di quanto non sembrasse, ovviamente. La penultima domanda che sono costretto a farle è: c'è qualcosa dell'esperienza antifascista, militante, poi della chiamata al potere nel tentativo di dare uno sviluppo che non fosse la sconfitta alla presenza francese in Algeria e poi nella riforma della Quinta Repubblica variata dal generale De Gaulle? C'è qualcosa ancora del gollismo nella destra di Le Pen oppure assolutamente, risolutamente no? L'estrema destra ha sempre avuto come nemico De Gaulle, perché De Gaulle aveva sconfitta due volte durante la Resistenza e poi durante la guerra d'Algeria. È vero che però De Gaulle era cresciuto leggendo Barrès, Morras. Possiamo dire che De Gaulle aveva democratizzato e costituzionalizzato, diciamo così, quegli elementi un po' inquietanti di cui abbiamo detto oggi. Ed è interessante notare adesso che Marine Le Pen cita sovente De Gaulle, ed è una citazione che il padre non si sarebbe mai sognato di fare, no? Perché c'è questa cosa, naturalmente, cosa ci sia di gollista, oggi il gollismo è un fenomeno finito, naturalmente, anche se poi i Republican si rivendicano a De Gaulle con maggiore legittimità. Però ecco, direi che è da parte di Marine Le Pen è un'invocazione così puramente strumentale. Questa retorica rosso-bruna, che come abbiamo visto nella storia francese c'è come fin dall'opposizione alla rivoluzione, ancora nel 2007, quando Le Pen appoggia nella campagna presidenziale Dieudonné, no? il comico camerunese di origine antisionista, in cosa la figlia lo invece consegna alla storia e ne fa un'altra storia? Allora, no, nella campagna del 2007, la campagna presidenziale del 2007 c'entra con Marine Le Pen, perché è Marine Le Pen che sviluppa un discorso che fa il padre, naturalmente, come candidato spostato a sinistra, addirittura le propaganda nelle banlieue, e quindi da questo punto di vista c'è una continuità. La grande differenza è che il Front National attuale ha rotto, almeno diciamo dal punto di vista formale, con l'antisemitismo, anzi l'espulsione del padre è avvenuta, è l'emblema, padre che è stato il fondatore, era il capo assoluto, è avvenuto proprio sulle ennesime dichiarazioni antisemite, addirittura negazioniste, di Jean-Marie Le Pen. Quindi da questo punto di vista accusare il Front, almeno i dirigenti del Front National, di essere antisemiti non è corretto, perché questo è il punto di rottura. Per tutto il resto però c'è una grande continuità tra l'ultimo Jean-Marie Le Pen, che era anche lui antimondialista, anti-globalizzazione, così, e l'attuale Front National. Ed è il nucleo, ovviamente, della tesi politica economica anti-europea, anti-euro, che sostiene Marine Le Pen. Vediamo come andrà. Lei non fa alla fine del libro giustamente alcuna previsione. La sua ultima frase è: quasi sempre la storia della Quinta Repubblica Francese è riservata a un'edizione sorprese. Io mi limito a dire, da appassionato di storia, di avere, cari ascoltatori, ancora un filo di giusta e motivata diffidenza verso i sondaggi. Sapete che i sondaggi al secondo turno hanno sempre dato da settimane in vantaggio Macron, però non fanno il giusto conto sull'astensionismo. Se l'astensionismo sarà molto elevato, state attenti, perché il risultato è ancora del tutto aperto tra Marine Le Pen e Macron. Ma leggete questo libro, perché sicuramente vi dà strumenti per capire che cosa davvero potrebbe fare e riservarci una presidenza Le Pen. Grazie a Marco Gerbasoni. Continuate con Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Mino, domani mattina alle 8:20. Attenti alle 2.